Siamo produttori di fitofarmaci, prodotti per l'agricoltura, l'industria e la zootecnia e siamo qui da più di 65 anni, una ditta che è stata fondata da mio nonno, è a Torre Manica, è attualmente ancora una ditta familiare, nel senso che è guidata da mio padre e poi da me e i miei fratelli. Posso chiederle, perché ha iniziato suo nonno questa attività? È perché nel dopoguerra, dove praticamente non restava più niente di attività produttive, lui ha avuto questa intuizione di produrre il solfato di rame, che è un prodotto che è usato come fitofarmaco, principalmente nell'utilizzo, viene utilizzato nella vite, no? Sui trattamenti della vite e da lì poi abbiamo avuto sviluppi anche su altre colture con altri prodotti e adesso abbiamo un catalogo molto ampio e mio nonno ci teneva particolarmente a circondarsi di verde, no? Quindi è stato molto bravo a curare anche l'aspetto del verde, ha piantato molte piante, tutte queste piante che vedete qui sono state piantate da lui perché voleva che fosse un'azienda nel verde, tant'è che l'azienda storicamente era sola, no? Poi siamo stati circondati, no? Dal paese, ancora oggi noi ci teniamo particolarmente all'aspetto della chimica verde e facciamo prodotti che vanno principalmente in agricoltura biologica e produciamo in Trentino, quindi una regione dove ci tiene, no? Rispetto dell'ambiente. Noi stiamo prendendo questa linea qua, no? Del prodotto. E biologico, che con meno impatto ambientale, anche perché i nostri prodotti sono fatti qua, invece magari molte altre aziende producono in Cina, in India, quindi c'è tutto questo discorso del chilometro zero, eccetera. Noi abbiamo cercato, no, di coltivare anche valori, no? E quindi anche chi ha bisogno, magari il contadino viene qui, parla con i nostri tecnici Poi anche noi come titolari, io personalmente parlo al telefono direttamente con i clienti, magari le multinazionali non arrivi a parlare con i vertici, no? Sei un numero, quindi l'agricoltore si sente un po' coccolato e noi cerchiamo di mantenere questo modo di lavorare, che per noi è importante. Mio nonno in particolare ha sempre contribuito sia personalmente ma anche economicamente allo sviluppo di Borgo Sacco, soprattutto con la parrocchia. E noi sosteniamo molte attività, tra cui il carnevale, la zafferata e abbiamo metà azienda che è di Sacco, quindi insomma. Per noi è importante, no? Il rapporto con la nostra comunità. Ceppo originario è di Castellano, no? Poi mia zia ha fatto uno studio, diciamo, sui Maniche praticamente, e abbiamo delle radici in Portogallo e in Sicilia, no? Quindi. Però va bene, i Manica vengono tutti da Castellano.